le donne belle come te. Ti c'era stanno ad ascoltare chi canta le belle serenate dell'amore. Perché innamorato son di te, che fai soffrire questo cuore che solo per te ruberebbe cielo mare. Perché le donne belle come te, ho visto il sole qua giù, e chi guardavo eri tu, dal tuo splendore io chiederò un po' d'amore. Il nome tuo non so, ma domandarlo saprò, per dirti solo che piace a me, e sai perché? Perché le donne belle come te, di sera stanno ad ascoltare chi canta le belle serenate dell'amore. Perché la capricciosa fai con me, che sotto il chiaro della luna ti canto con voce appassionata e sbarazzina. Amore, amore, il tempo passa e vola, vicino a me ti voglio e sai perché? Perché innamorato son di te, che fai soffrire questo cuore che solo per te ruberebbe cielo mare. Passa e vola, vicino a me ti voglio, sai perché? Perché innamorato son di te, che fai soffrire questo cuore che solo per te ruberebbe cielo mare. Le donne belle come te son fatte solo per baciar, perché